L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, in questa puntata dell'Altro Pianeta vi portiamo direttamente nel cuore delle Dolomiti e contemporaneamente a Fa la Cosa Giusta, fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si chiuderà oggi a Milano. Questo perché è proprio in questa fiera che la Val di Zoldo, appunto nelle Dolomiti, ha deciso di presentare il suo piano per uno sviluppo turistico sostenibile. Abbiamo seguito questa presentazione anche perché le Dolomiti sono uno dei patrimoni dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO e quindi la sostenibilità dello sviluppo turistico in quelle montagne è particolarmente importante. Marcella Morandini è segretario generale della Fondazione Dolomiti UNESCO. Sono 5 anni che le Dolomiti sono patrimonio mondiale dell'umanità. L'anniversario è il 26 giugno del 2009, appunto a Siviglia è stato dichiarato patrimonio dell'umanità ed è veramente una potenzialità enorme per questi territori che per la prima volta si mettono insieme e collaborano attorno ad un unico progetto. È anche una rivoluzione, se vogliamo, dal punto di vista proprio della collaborazione e della governance, perché il bene Dolomiti UNESCO è un bene seriale. Vuol dire che sono 9 gruppi montuosi distribuiti su 5 province diverse, ossia Trento, Bolzano, Belluno, Udine e Pordenone. Quindi 9 sistemi montuosi che formano un unico patrimonio dell'umanità. E quindi proprio per questo è importantissimo che i territori collaborino fattivamente tra di loro per cercare di gestire questo patrimonio in maniera unitaria. E quindi nel settore della mobilità sostenibile, nel settore del turismo, ma anche della gestione territoriale, è importante riuscire a convogliare le forze e a definire degli obiettivi comuni e delle strategie comuni. Infatti stiamo lavorando adesso al piano di gestione del bene, che verrà, diciamo, confezionato per il 2016, e questo enorme lavoro di definizione del piano di gestione è fatto sulla base di reti che vengono coordinate ognuna da una provincia diversa, per esempio Trento la geologia e la formazione, Belluno la promozione turistica, Bolzano la mobilità sostenibile e il turismo sostenibile, Udine il paesaggio, ancora Pordenone le aree protette. Come vedete c'è un fermento incredibile e tutti questi elementi poi vengono convogliati proprio verso la strategia di gestione che costituirà la costituzione, se vogliamo, delle attività future della fondazione, perché la fondazione è stata richiesta dall'UNESCO per avere un unico interlocutore come garante, diciamo, nei confronti dell'UNESCO di questo riconoscimento, che si basa sulla necessità di conservare prima di tutto, ma poi di valorizzare in maniera che venga fruito oggi e che possa continuare ad essere fruito nella sua bellezza anche in futuro, perché non dimentichiamo, le Dolomiti sono patrimonio dell'umanità sulla base di 2 criteri: la bellezza paesaggistica, quindi l'estetica del sublime, insomma, di queste rocce che si alternano a prati, pascoli e a valli abitate, e ancora l'importanza per la storia della terra. Dunque, ovviamente in questo contesto il turismo è un bene e un male insieme. Voi come accompagnate ad esempio un consorzio come questo della Val di Zoldo che cerca di promuovere il turismo, ma ovviamente deve farlo in maniera consapevole proprio per non rovinare questo patrimonio dell'umanità e portarlo al futuro? Si tratta di non perdere mai di vista l'obiettivo dell'equilibrio, ossia riuscire a coniugare le esigenze di conservazione del patrimonio, l'esigenza di conservazione ambientale, di tutela, con quello che invece è anche la promozione, il sostentamento delle valli di chi abita. Quindi la Fondazione credo che abbia un importantissimo ruolo nel far dialogare i diversi attori, le diverse istanze che sul territorio insistono, le necessità anche di chi fruisce il territorio dall'esterno. Quindi anche dare un punto di riferimento, un obiettivo comune per dire turismo, certo, però senza fare in modo che si vada a intaccare il capitale naturale che costituisce la base di qualsiasi azione. Ma ci sono anche dei vincoli specifici o è più un impegno morale, diciamo? L'UNESCO di per sé non inserisce vincoli supplementari, ma il bene seriale Dolomiti è praticamente già inserito in una serie di norme di tutela paesaggistica o di parchi nazionali o regionali, e quindi gran parte del territorio dell'area cuore del bene Dolomiti UNESCO è costituita da parchi nazionali, come nel caso del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ma parchi regionali, provinciali, aree ZPS, SIC, piuttosto che c'è anche un geoparco, quindi non è altro che costituire una cornice più ampia di riferimento per delle azioni comuni, ma non esistono norme supplementari di protezione o vincoli ulteriori. La gestione del territorio si basa su quello che già esiste, quindi le norme di gestione delle aree protette piuttosto che i piani paesaggistici. Naturalmente c'è anche una funzione di coordinamento da parte della fondazione per in prospettiva dare dei pareri non vincolanti sulle iniziativa, diciamo così. L'ultima cosa, si può decadere quindi dall'essere un patrimonio dell'UNESCO? Sì, il caso della città di Dresda, per esempio, che ha visto togliere il riconoscimento. Si può, il riconoscimento non è per sempre, si è sottoposti a una serie di verifiche periodiche da parte dei valutatori UNESCO, oltre che a una reportistica scadenzata. Ogni anno facciamo un report sull'avanzamento delle attività del piano di gestione e nel caso del nostro bene, nel 2016 verrà il valutatore della IUCN, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di beni naturali, a valutare lo stato di avanzamento. L'ultima visita è stata fatta nel 2011, quindi dopo 5 anni è attesa la seconda. Grazie mille, buon lavoro. C'è una valle, la Val di Zoldo, che sta cercando di promuovere il turismo mantenendo originalità e sostenibilità. Insomma, sta cercando di vendere le proprie bellezze ai turisti senza cercare di rincorrere modi e mode di altre già famose località turistiche delle Dolomiti. Anna Zaccone, vicepresidente del Consorzio di Promozione Turistica Val di Zoldo. Voi avete iniziato questo progetto, diciamo, di sviluppo e lancio del turismo nella vostra valle qualche anno fa, giusto? Sì, giusto. Quanti? 3 anni fa, esattamente 3 anni fa, quando abbiamo deciso di ricostituire un consorzio di promozione che in valle non c'era più e quindi abbiamo sentito la necessità di rimetterci insieme come operatori turistici per promuovere la valle. È una valle dolomitica, quindi in una zona che è nota a tutti gli italiani, però meno frequentata di altre, per la quale avete studiato un progetto diverso, diciamo, da tanti altri che vengono sviluppati normalmente in montagna. Quale? Allora, siamo partiti da un presupposto, innanzitutto la consapevolezza di avere un territorio molto bello, un territorio che non è stato, diciamo, appunto invaso dal turismo di massa e quindi anche da un certo punto svilito dal turismo di massa. Per cui abbiamo detto, abbiamo molti pregi, forse chi vive in un territorio a volte tende di più a vedere i difetti del proprio territorio. Noi abbiamo cercato invece di guardare i pregi e dire andiamo a promuovere il nostro territorio verso quel turista che vedrà qui solo pregi e non difetti perché vuole vedere queste cose, quindi vuole una valle magari priva di servizi ma dove si sente poco turista e tanto ospite, una valle dove dia la possibilità anche a Ferragosto di passeggiare e di non incontrare nessuno, cioè un posto dove effettivamente la natura ha ancora, diciamo, la meglio, riesce ad essere vissuta in armonia, in relax, dove veramente puoi lasciare a casa lo stress. Quindi stiamo cercando questo tipo di turista, il turista che abbia voglia di conoscere un territorio e di viverlo insieme a noi. Così com'è, senza così volerlo com'è. Trasformare no. A propria immagine no. E somiglianza, come è successo a molte città d'arte italiane, no. Purtroppo. Ad sì, esatto, ci siamo un po' forse è stata una scelta anche forzata, nel senso che in un momento di crisi, dove in una regione dove non abbiamo la possibilità di attingere a tantissimi fondi, quindi non potevamo pensare di stravolgere la nostra valle per farla d'immagine e somiglianza di quel turismo che si muove in massa. Abbiamo dovuto cercare di dire questo abbiamo, questo vendiamoci, però rendendoci sempre più consapevoli che quello che abbiamo sta diventando veramente un pregio, un valore, perché è difficile tornare indietro. Quando una valle o un territorio come una grande città, facciamo l'esempio di Venezia. Venezia è meravigliosa, però sempre più spesso io sento persone che non si innamorano di Venezia quando la visitano, perché purtroppo Venezia si sta rovinando dall'eccessivo turismo e dalla perdita di identità. ed è difficile tornare indietro. È molto più facile partire da un territorio che è ancora ricco di identità, che ha ancora qualcosa da dire: qui c'è, qui abbiamo una vera natura, qui abbiamo un vero vivere di montagna. Abbiamo avuto un inverno ad esempio difficilissimo, siamo rimasti isolati per più giorni, siamo rimasti senza corrente elettrica, abbiamo vissuto il disagio del vivere in montagna. Però è anche da un certo punto di vista che se riusciamo a non dico a vendere, ma a promuovere questo, riusciamo a far capire forse che il bello del conoscere la montagna è che sei in montagna, non sei in città. Per cui sì, stiamo cercando assolutamente di far venire voglia al turista di venire a conoscere un vero posto di montagna. Ora, detto questo, che è l'obiettivo, come lo state raggiungendo? Abbiamo anche qui, perché comunque qualcosa si muove, sì, lei diceva qualcosa prima. Qualcosa si muove e lo stiamo ottenendo grazie a un progetto che siamo andati in cerca di fondi, abbiamo avuto un fondo europeo e abbiamo realizzato degli strumenti. Anche qui siamo partiti pensando, abbiamo avuto un fondo ma non tantissimi soldi, quindi abbiamo cercato di usufruire degli strumenti più moderni e più economici, e quindi il web. Abbiamo quindi realizzato in primis un video, perché le forme di comunicazione più veloci sono sicuramente quella visiva, quindi abbiamo realizzato un video che ci permettesse di presentare però la valle in modo vero, quindi gli attori siamo noi, abbiamo girato noi con la troupe, non presentiamo il video, ha delle bellissime immagini, ma soprattutto noi speriamo che emozioni, faccia venire voglia di venire in valle a vivere emozioni, panorami bellissimi ormai siamo un po' abituati a vederli. Il video e l'altro strumento molto importante è un blog, perché avevamo un sito, il sito della valle, dove presentiamo, diciamo, la valle dal punto di vista più commerciale, però ci mancava uno strumento che appunto ricorresse di nuovo a questo, a far emozionare la gente perché abbia voglia di venire a trovarci. Quindi abbiamo realizzato un blog, che è fondamentalmente un sito dove però pubblichiamo degli articoli, dove presentiamo la valle nei suoi aspetti più naturali, più normali, però anche più veri. Quindi il blog, un marchio di qualità, perché dall'altro lato stiamo cercando di aumentare la qualità del servizio offerto dagli operatori turistici, che però sia coerente con questo tipo di finalità che abbiamo, cioè che sia coerente ad andare a trovare un turismo che è attento, che è lento, che ha voglia di un certo tipo di servizio. Quindi se ci presentiamo in un certo modo dobbiamo poi far sì che le strutture ricettive siano coerenti, quindi strutture ricettive attente all'ambiente, che lo manifestino al proprio ospite, che conoscano il proprio territorio. Quindi formiamo gli operatori turistici perché sappiano raccontare del territorio e sappiano consigliare dove andare, cosa fare in base alle proprie esigenze. Quindi non mettere semplicemente in mano una guida e dire arrangiati. No, ti consiglio io perché magari l'ho fatto io quella passeggiata. Insomma, perché ti accompagno. Perché ti accompagno, quindi un processo educativo anche da parte verso gli operatori turistici. Quindi fondamentalmente sono questi gli strumenti, e poi la partecipazione alle fiere e a organizzare degli educational, dove anche qui abbiamo deciso di chiamare in valle chi cammina, chi scrive in internet, i viaggiatori, quindi un po' un target diverso dal classico giornalista. E anche come fiere siamo a fa la cosa giusta, che non è proprio la classica fiera del turismo, però è un contesto dove ci permette di conoscere persone che, quando sono turiste nell'anno, possono avere interesse a conoscere una valle come la nostra. Senta, in chiusura, siccome tra poco parliamo di UNESCO, il vostro rapporto e l'essere all'interno di un patrimonio dell'umanità? Sì, siamo partiti, è la prima domanda che ci siamo fatti quando il consorzio è ripartito: come sfruttare un importante riconoscimento come quello che le Dolomiti hanno ricevuto? E la scelta di rivolgerci a un turismo di un certo tipo, cioè un turismo sostenibile, un turismo lento, un turismo attento, è partito proprio dal riconoscimento delle Dolomiti a patrimonio dell'umanità, quindi dalla consapevolezza di dire: abbiamo un grandissimo bene. Tra l'altro la Val di Zoldo è tra due dei 9 sistemi, per cui ha una posizione privilegiata, è a 2 passi da Venezia, dai più importanti aeroporti del Veneto, per cui ci siamo anche detti: dobbiamo renderci consapevoli che abbiamo un ruolo anche nell'ambito delle Dolomiti UNESCO come porta di accesso. Quindi cominciare a crescere proprio pensando che le Dolomiti, patrimonio dell'umanità, sono una grandissima occasione, però da rispettare, cioè da viverlo in modo coerente anche dal punto di vista della promozione turistica. E se questo è il piano della vicepresidente del Consorzio di Promozione Turistica Val di Zoldo, ricordo Anna Zaccone, sentiamo adesso anche il giovane sindaco di Zoldo Alto, Roberto Molin Pradel, che dal canto suo ha fatto scelte importanti per differenziarsi dalle altre località dolomitiche e si è impegnato molto e con successo, direi, per la ricerca di finanziamenti. Abbiamo sostenuto intanto la ripartenza di quello che è il consorzio di promozione turistica, che rischiava di andare perduto. Da questo siamo partiti con tutta una serie di iniziative, consapevoli intanto che il sistema dello sci da discesa è in crisi per una questione di costi, per tutta una serie di problematiche che ci sono. Siamo partiti intanto col sostenere una serie di interventi sulla promozione del prodotto. Questo progetto ne è un esempio ed è un esempio importante, perché poi il costo dell'intervento è circa di 96.000 euro e quindi capite che con questa cifra si riesce a fare comunque una buona cosa. Abbiamo sostenuto tutta una serie di attività che hanno portato a creare nuovo materiale di promozione, perché circa 3 anni fa ne eravamo assolutamente sprovvisti. E quindi abbiamo cercato anche di metterci in rete con il consorzio e tutti quanti gli attori. Dal punto di vista infrastrutturale noi abbiamo fatto tutta una serie di interventi, non da ultimo un intervento importante che ha valorizzato la pratica dello sci di fondo in località Palafavera, un intervento per circa 823.000 euro col quale abbiamo realizzato nuove infrastrutture per la pista di fondo, molto leggere, e anche le infrastrutture per la pratica del biathlon, cioè sparo e sci da fondo. Questa è la storia del turismo sostenibile, come lo sta cercando di realizzare la Val di Zoldo, come l'ha raccontato la Val di Zoldo stessa, fa la cosa giusta. Per riascoltarci c'è il sito internet, da domani nella pagina dell'Altro Pianeta. Per scriverci l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.